Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Ci sono molte cose da preparare prima di partire per una vacanza e un'attenzione particolare va prestata alle regole che rendono obbligatori documenti e particolari procedure, soprattutto quando si progetta un viaggio all'estero. Proprio ieri a pranzo una persona mi ha raccontato che lo scorso anno, pronta a partire per una vacanza in Marocco, si è presentata in aeroporto senza passaporto nella convinzione di poter partire con la sola carta d'identità. È stata rispedita a casa, quindi vacanze in fumo, perché le nostre convinzioni, come spesso capita, possono essere del tutto sbagliate. Allora oggi a Salva Danaio raccogliamo tutti i consigli utili per non trovarsi sprovvisti proprio al momento della partenza e tutte le cose da non dimenticare, soprattutto quelle che riguardano i documenti, dal passaporto al visto, ma poi parleremo anche magari di cosa dobbiamo ricordarci prima di partire se andiamo in un posto in cui è necessario mettere in cantiere anche prima l'idea della vaccinazione. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. Se volete intervenire in diretta, siete in partenza, avete paura di esservi dimenticati qualcosa, siete a posto con tutti i documenti, avete rinnovato il passaporto e soprattutto sapete che dall'anno scorso sono cambiate molte cose per i minorenni che viaggiano chiaramente con i propri familiari. Allora raccontateci tutte le vostre esperienze, ci potete anche scrivere al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Andate sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24, dove oggi campeggia una bella amaca con una palma, quindi proprio un posto ovviamente dove tutti vorremmo essere in questo momento. Scriveteci anche se volete su Twitter @salvadanaio24. Tra poco vi presenterò tutti gli ospiti con i quali affronteremo tutti questi aspetti. Prima di tutto però un'occhiata ai mercati finanziari. Come vi abbiamo già anticipato nel corso del giornale radio, oggi è una giornata prevalentemente positiva per le borse europee, che hanno guardato comunque in queste ultime ore anche alle indicazioni che sono arrivate dagli Stati Uniti, dove il presidente della Banca Centrale Americana Bernanke ha presentato il suo rapporto sulla politica monetaria. Ieri l'ha fatto alla Camera, oggi tocca al Senato. Non ci sono state delle novità di rilievo rispetto a quello che sapevamo, cioè gradualmente la Banca Centrale Americana comincerà a ridurre il suo stimolo monetario all'economia statunitense e quindi, siccome grosse novità appunto ieri sera non le ha indicate il numero uno della Federal Reserve, oggi il mercato appare abbastanza tranquillo. Ci sono state però molte trimestrali. Ieri sono stati diffusi i dati di Intel, che è stato confermato e ancora vittima della frenata nel comparto dei personal computer. Gli utili sono in calo per uno dei più grandi produttori appunto di microprocessori, di circa il 29% nel secondo trimestre di quest'anno. Sono andati meglio i conti invece per IBM, che è tornato a centrare le attese degli analisti sul fronte degli utili, anche perché questo gruppo ha in corso un enorme piano di ristrutturazione da parte dell'amministratore appunto delegato, tagli di personale anche molto consistenti. È andata molto bene invece anche per American Express. Qua abbiamo invece la società leader nel settore delle carte di credito. I consumatori americani hanno ripreso a spendere e ad indebitarsi e quindi insomma notizie buone per questo settore. In Italia andiamo a vedere Milano come si sta comportando: più 0,7% per il FTSE MIB, i titoli che stanno andando molto bene a dispetto dello spread di nuovo in allargamento a 300 punti base sono proprio i titoli del settore bancario. UbiBanca più 4,79%, Popolare dell'Emilia Romagna più 4,10%, bene Pirelli più 3,49% all'indomani della condanna del numero 1 Marco Tronchetti Provera per la vicenda dei dossier Telecom. Fondiaria Assai più 3,21% qua all'indomani dell'arresto dell'intera famiglia Ligresti e degli ex manager del gruppo. La società continua a correre e probabilmente, come dire, il mercato premia questa azione definitiva di chiusura con il passato appunto del gruppo, che comunque oggi è totalmente integrato con Unipol. Toz più 2,44%, Banco Popolare più 2,42%. Bene le altre borse: Parigi più 0,27%, adesso è leggermente positiva anche Francoforte più 0,03%, Londra più 0,39%. Per la borsa è tutto, andiamo subito al tema di oggi, però un paio di ospiti che sono già collegati telefonicamente con noi ve li presento immediatamente. La dottoressa Raffaella Navarra, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a lei. Assunta Piazzolla, buongiorno, coordinatrice operativa del prodotto per CTS, Centro Turistico Studentesco e Giovanile, che è la storica associazione del turismo giovane. E, dottoressa Piazzolla, buongiorno e benvenuta anche a lei. Buongiorno a voi. La nostra, anche la dottoressa Piazzolla, specializzata nell'ambito del tema biglietteria e documenti di viaggio. E poi abbiamo collegato telefonicamente anche Davide Bomben, presidente dell'Associazione Italiana Esperti d'Africa. Perché l'abbiamo chiamato? Perché naturalmente l'Egitto è stato il tema più gettonato delle ultime settimane per molti aspetti, e l'agitazione appunto in Egitto, come sapete, ha fatto rinunciare alla vacanza in questo posto a molte famiglie italiane, e allora ci faremo dare tutte le raccomandazioni del caso per raggiungere queste località. Bomben, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Allora, adesso naturalmente per onorare il lavoro del nostro Marco Lombardo sentiamo la scheda che ci ha preparato su questo argomento. Fatto da fare, preso da mettere in valigia, da comprare. Spesso le settimane e i giorni che precedono una vacanza ci vedono alle prese con lunghe liste di cose da non dimenticare. E di solito, più il viaggio in programma è lungo e la meta lontana, più la dimenticanza potrebbe rivelarsi grave e rovinarci le ferie. Se si va all'estero, è bene pensare con anticipo a tutti i documenti, dal passaporto al visto, tenendo conto dei tempi necessari per ottenerli e di tutte le procedure da sbrigare. Dall'anno scorso, poi, ci sono nuove regole per i documenti dei minorenni. Entrati in vigore proprio nei mesi estivi, avevano lasciato a terra molte famiglie a cui la notizia non era arrivata per tempo o che erano state poco attente. Per i più piccoli servono passaporto o carta d'identità, anche se viaggiano accompagnati dai genitori. Attenzione alle mete esotiche. Bisogna informarsi bene prima di avere brutte sorprese all'aeroporto. Per entrare in alcuni stati serve una sorta di lettera di invito. Per altri si può partire solo se si ha già in mano anche il biglietto del ritorno. E poi ci sono le polizze assicurative, il passaporto per gli Stati Uniti deve essere elettronico, e se si va in Africa, attenti alla lista delle vaccinazioni, che sono diverse a seconda del paese che verrà visitato, e a contattare una guida affidabile già prima di partire. Insomma, serve fare ordine e non farsi prendere dall'ansia da partenza. Pensare ai grandi e ai bambini, e anche agli amici a quattro zampe. Già, perché Fido, per viaggiare, ha bisogno del suo passaporto identificativo, dei suoi vaccini e soprattutto dell'indirizzo di una struttura ricettiva pronta ad accoglierlo. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Ne stanno già arrivando tantissime, e anche per chi può sembrare banale appunto, intende fare un viaggio anche per un breve tragitto, andando, come ci scrivono gli ascoltatori, in Croazia piuttosto appunto che per un'altra località europea. In realtà ci sono molte domande appunto che molte persone si fanno, perché chiaramente vogliono partire tutti tranquilli. Dottoressa Raffaella Navarra, lo ripeto, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato, ma capita così frequentemente che appunto dei potenziali viaggiatori arrivino in aeroporto e vengano rispediti indietro perché non hanno i documenti in regola? A volte purtroppo sì, spesso peraltro non arrivano neanche ai controlli di frontiera, ma vengono fermati dai vettori aerei, i quali rischiano sanzioni piuttosto gravi quando arrivano nello stato di destinazione. Quindi mi raccomando, al passaporto o al titolo di viaggio equipollente, quindi in genere la carta d'identità, il certificato per minori con il timbro della questura qualora ancora in corso di validità, e il modello ATBT, che sono tessere rilasciate ai dipendenti statali e che consentono, in alcuni stati che le riconoscono, l'ingresso appunto in questi stati. Il passaporto quindi deve essere in corso di validità e bisogna avere il titolo di viaggio, meglio conosciuto come biglietto aereo, perché a volte viene dimenticato, non è possibile, riporta delle date diverse, e nonché verificare le eventuali prescrizioni che sono imposte dallo stato di destinazione. Pensiamo a un visto, è stato riportato in maniera molto esaustiva nella vostra scheda introduttiva, quindi il visto, le eventuali vaccinazioni. Un altro punto fondamentale è verificare la validità residua del documento che è richiesta dallo stato di destinazione rispetto alla data di ingresso. Ci sono degli stati, ad esempio, che richiedono 6 mesi di validità, 3 mesi certo. di validità. Quindi se noi partiamo con un passaporto che chiaramente in questo momento è valido, ma che magari teoricamente scade ad ottobre, magari andiamo in un paese in cui invece richiede una... appunto scadenza residua più lunga, una validità sì. residua più lunga, per cui attento anche a quello. Quindi bisognerebbe farlo. Possono rimandare indietro. Queste informazioni generalmente sono fornite dalle agenzie di viaggio, dai tour operator, ma è sempre dalle compagnie aeree, ma è sempre bene contattare le rappresentanze diplomatiche e consolari dello stato di destinazione, oppure anche collegarsi con il sito della Farnesina. Certo, ha fatto bene a ricordare appunto che tutte le agenzie di viaggio naturalmente sono pronte a darci tutte le informazioni del caso, ma c'è anche chi ci ha raccontato, poi ce lo faremo raccontare appunto nella seconda parte del programma, che nonostante ci si come dire, che si spenda tanto fiato appunto per tutte le raccomandazioni, c'è chi pensa comunque di partire con le proprie idee, il documento anche non totalmente a posto, pensando di farla franca, perché capita anche questo. Volevo andare da Assunta Piazzolla, coordinatrice operativa del prodotto appunto per CTS, Centro Turistico Studentesco e Giovanile, che è la storica associazione del turismo giovane. In questo caso per i ragazzi le raccomandazioni probabilmente devono essere implementate, perché sono un po' più distratti qualche volta, visto che a risolvere tanti problemi ci pensano sempre mamma e papà. Piazzolla, appunto, allora, ai ragazzi pronti magari a partire entro breve per fare un viaggio di studio all'estero, insomma, quali raccomandazioni cambiano? Ma in realtà le raccomandazioni sono sempre le stesse, come ha detto anche la dottoressa prima, cioè bisogna sicuramente informarsi preventivamente sul discorso dei documenti che servono per l'espatrio, fermo restando che poi durante il periodo estivo soprattutto i tempi si allungano, quindi per destinazioni che prevedono visto, che comunque prevedono anche, e soprattutto per i ragazzi al di sotto per esempio dei 14 anni, per i corsi di lingua che adesso è richiesto comunque un documento individuale, bisogna richiederlo con i tempi necessari. E se si va in destinazioni dove sono previsti anche i visti è necessario comunque muoversi per tempo. Certo, questo sicuramente. Allora magari per adesso accantoniamo il tema del visto, andiamo in località più vicine all'Italia. Per esempio vedo molti ascoltatori che ci stanno scrivendo al 349-238-6666, probabilmente sono molte mamme e molti papà che sono pronti appunto a far andare i propri figli a Londra per questa famosa appunto vacanza studio che stavo dicendo adesso. Luca ci scrive, 14enne che va a Londra con accompagnatore, che cosa deve avere? Un altro ascoltatore, posso mandare mia figlia 14enne a Londra con un conoscente adulto? Ce lo chiede Daniele. Piazzolla, le giro tutte lei queste, forse sono anche temi con i quali si confronta quotidianamente. In entrambi i casi, allora sicuramente al di sotto dei 14 anni devono comunque avere una carta d'identità valida per l'espatrio oppure un passaporto individuale, comunque sia in corso di validità, devono avere al di sotto dei 15 anni un lasciapassare firmato dalla questura, che comunque sia se viaggiano con i genitori è soltanto un modulo compilato da entrambi i genitori nel quale comunque sia si dichiara che il ragazzo viaggia con i genitori, o se sia al di sotto dei 14 anni e si viaggia con una persona che non è il genitore, devono comunque avere una dichiarazione di accompagno, una dichiarazione d'affido fatto dai genitori anche in questo caso. Questa procedura va chiesta sia alla questura, quindi è un documento valido che viene comunque, deve essere firmato dalla questura, sia viene richiesto anche dalla scuola nel quale andranno a soggiornare, perché comunque vogliono un documento firmato dai genitori, sia dalla compagnia aerea che deve attivare una procedura per minori non accompagnati. Perfetto, se sarà necessario poi ritorneremo su questi aspetti. Dottoressa Navarra, torno a lei, alla Polizia di Stato, per affrontare immediatamente quel nodo che le avevo detto già nel corso della nostra telefonata pre-salvadanaio, il tema della famosa marca da volo da porre sul passaporto, perché chiaramente ci sono molti ascoltatori che sono pronti a partire per andare fuori dall'Europa e devono metterlo. E adesso poi tra l'altro c'è anche tutto il quesito sul fatto che la polizia durante il controllo debba timbrarlo o meno, ma magari poi lo affrontiamo. Questi 40 e rotti euro, ogni quanto tempo li dobbiamo pagare, appunto, perché è necessario farlo soprattutto per i voli extraeuropei, come dicevamo, perché se si viaggia in Europa in realtà teoricamente la marca da bollo non si appiccica sul passaporto. Appunto, la posizione della marca da bollo è necessaria soltanto quando ci si muove verso destinazioni extra Unione Europea, quindi non solo extra Schengen, ma nell'ambito dell'Unione Europea non è necessaria. La marca da bollo viene apposta una volta l'anno rispetto alla data di rilascio del passaporto. Quindi se io ho il passaporto stato rilasciato il 2 febbraio del 2012, la dovrò riapporre il 2 febbraio del 2013. Ecco, tra l'altro, verso una destinazione extra Schengen. Ho saputo poco fa, per una disavventura capitata ad un'altra persona che conosco, che se c'è andata bene, se è andata bene per un bel po' di viaggi e nessuno ha avuto da ridire sul fatto che questa marca da volo non fosse stata rinnovata appunto costantemente, in realtà questa persona, praticamente la polizia ha verificato tutti i viaggi fatti extra europei nel corso degli ultimi anni e le hanno appioppato una bella multa, nel senso che le hanno fatto pagare praticamente tutte le marche da bollo non pagate in quegli anni. Capita così, dottoressa Navarra? Noi ogni qualvolta rileviamo che la persona non ha apposto la marca da bollo, la portiamo alla Guardia di Finanza che procede da questo punto di vista. La persona può viaggiare, ma rischia una contravvenzione di che è pari a 3 volte la marca da bollo, quindi conviene sicuramente apporla. Infatti. La Guardia di Finanza fa anche controlli in questo senso e dai timbri di ingresso negli stati esteri può risalire ai viaggi pregressi che si sono fatti senza la marca da bollo. Allora, Davide Bomben, presidente dell'Associazione Italiana Esperti d'Africa, questa mattina abbiamo ritenuto necessariamente di coinvolgerlo perché insomma il tema dell'Egitto è stato molto gettonato nelle ultime settimane per vicende che non avevano nulla a che fare con le vacanze delle famiglie italiane, ma anche con questo argomento, perché chiaramente con i tumulti e le agitazioni che ci sono stati di recente, molti hanno deciso di rinunciare alla vacanza a Sharm el Sheikh o a Hurghada o ad altre appunto belle località, non raggiunte tra l'altro dalle agitazioni, però giustamente se le persone si spaventano hanno anche il diritto di rinunciare. Detto questo, l'Egitto è una cosa, dottore Bomben, tutto il resto dell'Africa è tutt'altro, non è, come ci dicevamo all'inizio, una vacanza, come dire, da last minute. Verissimo. Il continente africano è un continente immenso, è il terzo più grande del mondo, pertanto ogni paese ha ovviamente una sua differenza e una sua particolarità. Noi consigliamo sempre di cercare di conoscere questo paese attraverso dei percorsi di viaggio, anche quelli più particolari, sempre attraverso la conoscenza del paese, magari di tour operator, agenzie di viaggio, che siano queste locali o italiane, che ovviamente conoscono in maniera approfondita non solo il paese dal punto di vista turistico, ma anche tutte quelle che sono quelle limitazioni che potrebbero in qualche modo danneggiare il piacere della vacanza. Ecco, poi soprattutto non è una vacanza da last minute, perché per raggiungere certe località africane bisogna anche andare vaccinati e le vaccinazioni non si fanno il giorno prima appunto di recarsi in aeroporto. Assolutamente vero, ci sono alcuni paesi dove è obbligatoria la febbre gialla, tra l'altro deve essere fatta all'interno ovviamente di contesti come l'ASL, c'è il rilascio ovviamente di un documento che segue il passeggero per 10 anni circa e deve essere ovviamente esibito una volta arrivati in alcuni di questi paesi, come ad esempio la Tanzania o il Kenya. Certo, nell'immaginario collettivo l'Africa è la terra per eccellenza del deserto, dove è sempre caldissimo. Ho scoperto con il dottor Bomben invece, prima di partire con la trasmissione, che invece ci sono alcune zone dove in questo momento è decisamente freddo, addirittura ci sono temperature sotto lo zero, per cui attenzione anche quando partiamo ad informarci molto dettagliatamente sulle condizioni climatiche. È importantissimo, soprattutto quando si parla di Africa subequatoriale, quindi scendendo dalla Tanzania e arrivando al Sudafrica, in questo momento è inverno, ci troviamo dall'altra parte dell'emisfero e quindi il globo australe in questo momento ha il suo inverno, soprattutto andando nei deserti come il Kalahari o il Namib, che è un deserto costiero il più antico del mondo, possiamo trovare delle temperature che variano dai 10 gradi al mattino o come stamattina a meno 1 grado, mi ha chiamato una mia guida questa mattina alle 6:30, appunto per un freddo quasi polare nonostante ci trovassimo nel deserto del Namib. Pazzesco. Allora, adesso ritorneremo anche sulle questioni africane, soprattutto sul tema dei documenti per andare appunto con regolarità e a raggiungere queste zone. Vi faccio già sentire magari qualche domanda di qualche ascoltatore ai quali risponderemo subito dopo la nostra prima pausa. E allora, il tema degli animali, io non mi ero messa d'accordo per la verità con i miei ospiti per affrontare anche questo argomento, ma sono certa che tutte le persone che si rivolgono a loro, o molte persone che si rivolgono a loro, pongono anche questo aspetto, per cui lo sento subito con Graziella da Roma, poi vediamo che cosa possiamo indicarle. Graziella, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io devo recarmi in Inghilterra con il mio cane, per evitare problemi con l'aereo ho deciso di andare in auto. Ah. Ho ricevuto le più controverse suggerimenti su cosa serva per poter sbarcare in Inghilterra col cane. Vorrei qualcosa di... Adesso spiazzo completamente i miei ospiti, ma do loro qualche minuto di tempo per documentarsi su questo tema. Sentirei anche Lorenzo da Firenze, così almeno mettiamo in cascina un po' di fieno, mettiamo appunto in riserva un po' di domande e rispondiamo loro nella seconda parte del programma. Lorenzo, buongiorno. Ecco, buongiorno. Mi fa piacere che c'è la vicequestore, perché la domanda che vorrei fare è se le questure sono in generale ben informate di tutto questo problema, perché a me è successo qualcosa di molto spiacevole, perché andando in questura a Roma per preparare il viaggio negli Stati Uniti e in particolare per mia figlia, che ha un passaporto fatto dopo il 2006, non digitale, ci è stato detto che andava bene. Siamo arrivati all'aeroporto e siamo stati bloccati e la questura dell'aeroporto ha detto no, non va bene. Mm-mm. Tornati poi a Roma, la stessa questura ha detto ma no, va benissimo. Chi l'ha detto? Insomma, ho l'impressione che ci sia una poca informazione anche negli uffici della questura, e questo poi va a danno di chi viaggia. Ovviamente, poi tra l'altro Lorenzo giustamente le dice, parliamo di Roma, di una città dove comunque informazioni di questo tipo dovrebbero circolare in maniera assolutamente corretta e puntuale. Eccoci ritrovati a Salvadanaio. Allora, siete pronti ad andare in vacanza? Avete scelto una località originale, inconsueta? Insomma, siete sicuri di avere tutti i documenti a posto prima di partire? Attenzione, fate un doppio, triplo controllo, perché può anche capitare che poi magari in aeroporto vi rimandino indietro perché la carta d'identità non è esattamente in regola, perché è in scadenza, oppure anche perché la dottoressa Navarra della Polizia di Stato, perché qualche volta questi documenti, molti viaggiatori si presentano anche ai controlli con una documentazione stracciata, non a posto, insomma bisogna fare attenzione anche all'estetica qualche volta, o anzi spesso, sempre direi. Non è solo un fatto di estetica, è un fatto di sostanza. Il passaporto infatti non deve essere deteriorato, deve salvaguardare e presentare tutti i criteri di sicurezza che vi sono apposti sopra, quali ad esempio la leggibilità dei dati anagrafici, della foto. Facciamo attenzione a non metterlo in lavatrice, a non darlo al bambino piccolo. Esatto, o al cane, quel famoso cane che magari vogliamo portarci in vacanza. Prima di affrontare il tema degli animali in viaggio, volevo chiedere se voleva rispondere all'ascoltatore di Firenze che ci ha raccontato della disavventura appunto con sua figlia e questa discordanza di vedute tra la questura di Roma e poi invece i poliziotti appunto al controllo all'aeroporto. Il passaporto per andare negli Stati Uniti di che tipo deve essere? I passaporti rilasciati dopo il 26 ottobre del 2006 devono essere passaporti elettronici, quindi devono presentare il microchip. Tutte queste informazioni, perché ci sono varie date per quanto riguarda i rilasci dei passaporti per potersi recare verso gli Stati Uniti, se si consulta il sito della Polizia di Stato è assolutamente spiegato in maniera chiara. Cosa può essere successo allora? Dopo il 26 ottobre 2006 accettano i passaporti rilasciati dopo il 26 ottobre 2006 devono essere validi, sono accettati solo se passaporti elettronici. Certo, speriamo che Lorenzo si sia imbattuto in un funzionario che quel giorno forse non aveva molta voglia di impegnarsi a controllare bene la sua situazione, perché credo che, visto che sono passati un bel po' di anni, ormai tutte le questure e tutti i vostri commissariati saranno informati appunto sulle novità, immagino, dottoressa Navarra. Ci mancherebbe altro, no? Scolarizzate. Scolarizzate, perfetto. Allora, Assunta Piazzolla, ci vuole dare qualche suggerimento per la nostra ascoltatrice che sta andando a Londra, siccome vuole portare il suo animale al seguito, ha rinunciato al volo aereo perché spesso appunto gli animali vengono messi in stiva e non viaggiano sicuramente in condizioni serene, e allora la nostra ascoltatrice preferisce andare in auto. Ha qualche raccomandazione per lei? Ma diciamo che l'Inghilterra fortunatamente da gennaio del 2012 si è un attimino equiparata a quelli che sono gli standard europei, quindi adesso per entrare nel Regno Unito basta il passaporto rilasciato, munirsi del passaporto della Comunità Europea per quanto riguarda l'animale con il microchip del codice identificativo, la data di vaccinazione per la rabbia, che non deve essere assolutamente inferiore ai 21 giorni prima della partenza, quindi comunque deve essere fatta antecedente la data di arrivo in Inghilterra di 21 giorni, e per quanto riguarda i cani devono anche avere indispensabile il trattamento contro i parassiti che deve essere fatto non prima di 24 ore dall'arrivo e non oltre le 120 ore dall'arrivo. a prescindere da queste piccole accorgimenti, l'animale può tranquillamente viaggiare con il proprio padrone. Allora, c'era un ascoltatore che volevo ritornare per un attimo a Bomben per quello che riguarda le aree africane da raggiungere. Un ascoltatore che ci scrive, Riccardo, è un operatore turistico in Tanzania, dice che per quanto riguarda la Tanzania non è più richiesta la vaccinazione contro la febbre gialla. L'abbiamo detto noi prima, Bomben? Giustissimo, assolutamente. Mm-hmm. Per entrare direttamente nel paese non c'è bisogno della vaccinazione contro la febbre gialla, bisogna però fare attenzione se il volo è diretto, quindi in arrivo diretto sul paese, oppure un volo con scalo ad esempio da Nairobi, quindi un altro paese come ad esempio il Kenya, dove invece bisogna fare attenzione a questo tipo di situazione perché i due paesi non hanno reciprocità e quindi si richiede poi dopo la febbre gialla. Ecco perché bisogna sempre fare attenzione anche al volato aereo, come si raggiunge un paese. Senta, quanto tempo prima bisogna fare le vaccinazioni, se volessimo andare appunto in una zona africana in cui le vaccinazioni sono indicate per determinati tipi appunto di eventuali e possibili patologie, quanto tempo prima dobbiamo farle? La febbre gialla è una vaccinazione che viene richiesta direttamente all'ASL, una volta fatta bisogna attendere il passaggio di una settimana, due settimane e poi dopo procedere appunto con il viaggio e l'arrivo nel paese. Bisogna portare durante il viaggio chiaramente anche il documento che attesti che la vaccinazione è stata fatta? Assolutamente sì, certo. È un documento, un libretto sanitario molto simile a quello, diciamo così, italiano, che viene di solito richiesto una volta entrati nel paese, ma spesso e volentieri lo richiedono già in quei paesi dove è obbligatorio in partenza dall'Italia come controllo, come documento appunto di trasporto. Benissimo. Saluto, perché ci ha raggiunto telefonicamente, anche Alessia Saveri, titolare dell'agenzia Alisof di Roma. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Alessia, le faccio sentire una domanda di Marco dalla provincia di Venezia, perché secondo me lei ci ritrova un po' di familiarità. Marco, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti. Ci dica. Domanda, se vuole, banale, però. No, non c'è niente di banale, guardi. Ci dica. Io devo recarmi in Croazia e ho la carta d'identità. La carta d'identità mi era scaduta e recandomi presso, ancora diversi anni fa, recandomi presso il comune di residenza, mi hanno apposto un timbro con la nuova scadenza, mi è stato, che tra l'altro sarà nel 2014. Parlando con un amico mi hanno detto: no, guarda che non va bene il tuo documento di identità, perché il semplice timbro di rinnovo non è considerato un titolo valido per entrare in Croazia. Vero? Marco, adesso non so se questo va bene per la Croazia, sicuramente quella del suo amico è un'indicazione giusta per raggiungere altre località. Alessia Saveri. È così. Buongiorno. Allora sì, in realtà si stanno creando delle problematiche per le carte d'identità in formato cartaceo che vengono rinnovate con il timbro apposto dal comune. In realtà cosa succede? Quando la nostra carta d'identità è in scadenza, purtroppo con molta leggerezza magari qualche volta non veniamo informati che un timbro apposto nel retro della carta praticamente la rende non più valida per l'espatrio. Quindi alcuni paesi come la Spagna chiudono un occhio e ci permettono ovviamente il transito, ma ci sono delle compagnie aeree che proprio non accettano questo tipo di documento, come per esempio anche i voli low cost, che non consentono ai cittadini di poter salire a bordo con la carta rinnovata. Quindi noi diciamo a tutti i nostri clienti, proprio per evitare qualsiasi dubbio, di rifare le carte d'identità qualora siano dei viaggiatori e quindi sfruttino la carta d'identità anche per i viaggi, proprio per evitare che poi in aeroporto, come magari è successo e a noi purtroppo anche alcuni clienti hanno avuto la brutta sorpresa, nonostante fossero stati avvisati, di tornare a casa, perché non è consentito assolutamente di salire in aereo o di raggiungere alcune destinazioni con carte d'identità che sono praticamente rinnovate soltanto con il timbro. Certo, quindi prorogate, diciamo, in maniera, con questa maniera. Senta, oltre a questa situazione, che ci sembra dunque a questo punto anche abbastanza ricorrente, quali sono le altre situazioni nelle quali appunto le capita di ritrovarsi con i clienti che segue, per i quali sta organizzando dei viaggi, che sono un po' disattenti appunto nella documentazione da portare in viaggio? Allora, in realtà ognuno di noi, ovviamente l'ufficio, l'agenzia di viaggi, cerca di dare tutte le indicazioni necessarie al cliente prima di partire, proprio per evitare che il cliente debba soltanto documentarsi magari nel catalogo. Però le cose che capitano più spesso sono ovviamente le domande più frequenti, sono soprattutto quelle di, della documentazione necessaria per il minore sotto i 14 anni, quando magari deve andare in vacanza con uno zio, con una persona che non sono i propri genitori, e quindi ovviamente dobbiamo necessariamente comunicare ai clienti che c'è necessità di avere una autorizzazione dalla questura, e quindi un foglio vidimato dalla questura, affinché i minori possano viaggiare con genitori, con persone che sono diverse dai genitori. E quindi il primo problema sono veramente i minori all'estero. Poi, le ripeto, ormai un pochino ci ha agevolato il fatto che tutti dobbiamo avere un documento, quindi i bambini sul passaporto non esistono più, devono ormai tutti avere un loro documento per l'espatrio, e quindi questo un pochino ci ha agevolato, perché in qualche modo ognuno deve avere il proprio documento d'identità. Però ecco, la cosa più frequente in questo momento sono questi disagi dovuti alle carte d'identità rinnovate, che noi veramente stiamo mandando gente a fare la fila nei comuni poi, certo. Abbiamo il problema che veramente tornando indietro si perde tutto, non c'è no, ecco, non è un'indicazione, non è un'indicazione banale, anche perché se poi la carta d'identità va rinnovata ci sono delle situazioni nelle quali prima di rinnovarla ci vuole un sacco di, bisogna prendere un appuntamento al comune con un sacco di settimane di anticipo, come capita a Milano. In un comune più piccolo sicuramente questo non succede, il rinnovo è più veloce, però insomma ricordiamoci anche di questo. Paolo da Modena ritorna, e lo ringrazio per questo, sul tema della vidimazione del bollo a posto sul passaporto. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Io volevo anche aggiungere un mio piccolo contributo sull'Africa. Sì, volentieri. Sono appena rientrato da un tour Ruanda e Congo. Allora, Ruanda richiedeva un invito, come voi giustamente avete fatto presente prima. Per quanto riguarda il Congo, abbiamo dovuto invece, tramite l'ambasciata in Italia, avere già il passaporto timbrato. Al rientro dal Congo di nuovo in Ruanda è stato necessario un nuovo invito, per cui questo l'agenzia turistica ha fatto tutto, si è occupato di tutto. Molto importante ecco, quindi era rivolgersi a chi è competente. Bravissimo Paolo, infatti, ecco. Condivido totalmente. Ecco, febbre gialla obbligatoria. Io consiglio anche a tutti coloro che vogliono andare in Africa di documentarsi sulle prevenzioni gastrointestinali, che possono essere molto utili. Ottimo. Grazie Paolo. Seconda cosa invece sul bollo, sul passaporto? Ecco, è capitato appunto in un nostro viaggio sulla Tanzania, avevamo apposto il bollo sul passaporto, non siamo andati in questura per motivi logistici di tempo, tanto abbiamo detto in aeroporto ci timbrano il bollo. Sì, ma in realtà non lo timbrano quasi mai Paolo, però... Ecco, difatti ci siamo imbarcati a Bologna, ci hanno detto no, ci pensano poi a Roma a farlo, a Roma nessuno si è preoccupato. Noi con un po' di ansia eravamo preoccupati al rientro se ci potevano contestare o meno il fatto che non ci fosse il timbro sul bollo. E quindi? Non è successo niente, sì. Però il dubbio è rimasto, cioè siamo tranquilli se non è bollato? No, oppure... io Paolo penso di sì questo, anche perché adesso c'è la data di emissione, per cui credo che questo metta a riparo da eventuali disavventure. Detto questo, una volta anch'io, nella totale incertezza, come è capitato a lei, ho chiesto al poliziotto, al controllo, di mettermi appunto la data e il timbro, mi ha guardato come per dire, ma sei scema? Se non te lo faccio io perché me lo devi chiedere? Però me l'ha messo lo stesso, ma ero un po' agitata, dopodiché, quando ho visto che lì erano tutti tranquilli... Nei viaggi successivi non l'ho più fatto. Allora, volevo commentare tutta la situazione di Paolo da Modena prima di andare al timbro sul bollo applicato al passaporto. Volevo però sentire cosa ne pensa Davide Bomben, che è il presidente dell'Associazione Italiana Esperti d'Africa, sul viaggio fatto dal nostro ascoltatore. E ora ovviamente tutto completamente organizzato dall'agenzia, che non ha perso di vista nessun aspetto. In Ruanda serve un invito. Ci sono appunto, magari lo ribadiamo Bomben, certi paesi in cui per poter entrare in realtà bisogna essere invitati. In che cosa consiste in realtà questo gesto di invito? Prima vorrei ringraziare Paolo perché comunque ha sottolineato l'importanza di viaggiare con qualcuno che sappia come farci viaggiare, questo è veramente importantissimo. Peraltro complimenti, perché in Congo pochissimi italiani vanno, quindi lo ringrazio, probabilmente è andato a vedere i gorilla nella zona dei monti del Virunga. Di fatto, per andare in Ruanda non parliamo di scimmie, che in questo periodo Bomben scivoliamo anche sul politico, come lei sa. No, ma sto il scherzando, il gorilla è africano, rimane africano come specie, lei forse parla di specie diverse, esatto, da quelle, esatto, africane, chiuso a parentesi, era solamente per sorridere un attimo, quindi bene, ottimo. L'invito, allora, l'invito di un paese che si vuole visitare e magari non ci fa entrare perché non siamo stati invitati, chi ce lo deve mandare questo invito? Deve essere fatto assolutamente tramite una rappresentanza diplomatica ruandese in Italia, questo vuol dire farò ad esempio tramite il consolato piuttosto che l'ambasciata, eccetera. Questa ambasciata ovviamente farà una richiesta e nel caso specifico di un viaggio organizzato ci sarà il tour operator locale che si occuperà di mandare questo invito appunto per poter partire, mm-hmm. quindi per poter arrivare senza. Però insomma diciamo che io dovrei teoricamente esprimere una volontà di andare in questo paese e quindi attivarmi per prima per ricevere questo invito. Assolutamente, assolutamente. Cioè... peraltro si può andare sul sito di migration.gov che è il sito internet appunto del Ruanda e si fa una richiesta di un documento, un formulario che si chiama Entry Facility da compilare ovviamente da inviare insieme alla richiesta per il visto. Perfetto, allora affrontiamo questo benedetto, maledetto bollo sul passaporto, ci metto insieme anche la domanda di Giuseppe da Varese così facciamo un discorso che spero possa comprendere tutte le problematiche possibili sul tema. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, una cosa molto semplice. Io vado spesso negli Stati Uniti, però non tutti gli anni, per cui il mio passaporto che ha validità fino al 2019 vede, ad esempio l'anno scorso sono stato all'estero ma non fuori Europa e quindi non ho apportato il bollo, mentre a settembre dovrò andare negli Stati Uniti e quindi credo di dover, ovviamente lo prendo. Volevo solo chiedere, perché non ho capito, se ogni anno va ammesso anche se io non faccio un viaggio. Assolutamente no, Giuseppe, fin qui pensi lei, ci sono arrivata pure io, dottoressa Navarra, lo so ma non è tutto scontato, comunque ha ragione a chiederci, dottoressa Navarra, perché qua effettivamente si genera questo equivoco, no? Che bisogna metterlo tutti gli anni proprio perché adesso c'è una data sulla marca da bollo, in realtà se non si viaggia direi che non è il caso di metterlo. La data, come cercavo di spiegare prima, la data fa riferimento alla data di emissione del passaporto, quindi la marca vale un anno dalla data di emissione del passaporto, è chiamato anno legale. Quindi, sì, però sulla marca da bollo c'è una data, io il mio passaporto l'ho fatto nell'agosto del 2006, quello nuovo eccetera, però la marca da bollo quest'anno per andare negli Stati Uniti l'ho messa a giugno, che cosa vuol dire che fa fede la data del passaporto? Che vale 3 mesi. E quindi adesso se io riparto a settembre devo rimettere un'altra marca? Se riparte a settembre deve mettere una nuova marca da bollo. Ah, devo rispendere altri 40 euro? Lo sto scoprendo adesso con lei. Scusi, fa riferimento all'anno legale, che è l'anno di rilascio del passaporto. Ah, beh, questa è una e bella... Vale un anno dalla data di rilascio del passaporto. Non deve essere apposta la marca da bollo se non ci si muove dall'ambito Unione Europea, quindi se io vado a Londra, se vado in Svizzera, se vado in Spagna, non ho bisogno di apporre la marca da bollo, ma fa riferimento all'anno legale che è computato dalla data di rilascio del passaporto. Va bene, quest'anno mi sono fregata da sola, 2 viaggi negli Stati Uniti, uno fatto, uno da fare, il passaporto scade ad agosto e devo rifarlo, da quello che, cioè, sinteticamente io ho capito solo questo. Esattamente. Non è una gran bella notizia quella che ci dà. Detto questo, quando arriviamo al controllo in aeroporto, il poliziotto di turno che ci guarda il documento è obbligato a metterci un ulteriore timbro lì sopra? Perché questo aspetto agita molto i molti ascoltatori. I timbri alla frontiera vengono apposti solo verso gli stranieri. I cittadini italiani possono tranquillamente annullare la marca da bollo scrivendo la data di partenza. Ho capito. Se non viene vidimata, fa fede la data del timbro d'ingresso nel paese straniero. Assunta Piazzolla, torno al CTS, Centro Turistico Studentesco e Giovanile. Anche per voi ci sono molte domande su questo argomento? Bisogna fare, come dire, l'ABC della marca da bollo sul passaporto prima di far partire tutti i ragazzi che si rivolgono a voi? Le domande sono molteplici perché comunque effettivamente poi le informazioni che vengono date, nonostante, come diceva giustamente la dottoressa, sul sito della Polizia di Stato è spiegato molto molto bene, ma ci sono comunque moltissimi siti dove effettivamente vengono riportate sia per quanto riguarda i passaporti validi sia per quanto riguarda le marche da bollo. Sul discorso della marca da bollo c'è tantissima confusione ed effettivamente non molti sanno che è valido 365 giorni dalla data di emissione del passaporto. Quindi se io ho il passaporto che mi scade il 20 di agosto e ho messo la marca da bollo il 18 di agosto, Dopodiché il 20 di agosto il passaporto, cioè la marca da bollo è annullata. La no, ma questa cosa di stamattina mi sta veramente innervosendo anche, posso dire, perché però mi sono organizzata con due viaggi diversi, quindi racconto anche a tutta la popolazione italiana i fatti miei, però effettivamente io lo scopro adesso, non avevo capito questo passaggio. Beh, comunque insomma, Salvadanaio serve anche a questo. Altri suggerimenti sul tema passaporto per i ragazzi che sono pronti a partire, Piazzolla? Ma sicuramente informative devono anche essere date per quanto riguarda i ragazzi, per il discorso dei documenti, come diceva giustamente prima la domanda sul fatto della carta d'identità. Molti non sapevano che la carta d'identità vitimata dietro con il rinnovo, perché è scritto a penna il rinnovo, quindi può essere effettivamente contraffatto, non è valida. Molti ragazzi partono con la carta d'identità di questo tipo, molti ragazzi partono con documenti che non sono validi, quindi comunque sia i genitori si devono preoccupare di far fare tutti i documenti nell'arco prima della partenza. Molti, diciamo, non parliamo dell'Unione Europea perché comunque sia non c'è bisogno di visti e niente, però molto spesso accade, soprattutto per i viaggi di studio che riguardano Stati Uniti, Australia, servono anche qui delle lettere di invito e comunque dei visti che vanno chiesti con appuntamenti, quindi bisogna muoversi per tempo. Durante l'estate i ragazzi che si muovono per l'Europa sono più che altro allarmati, non tanto ad esempio per quanto riguarda le low cost. Le low cost non permettono di viaggiare al di sotto dei 16 anni se non si ha un accompagnatore, nonostante la regolamentazione dice che i minori non accompagnati sono soltanto fino a 14 anni. Superati i 14 anni possono anche viaggiare da soli, le low cost non lo permettono. Certo, quindi insomma non ci sono delle regole generali che valgono per tutti bisogna informarsi, perfetto. Perché ogni compagnia applica una propria regolamentazione per quanto riguarda il trasporto dei minori non accompagnati, ogni paese applica delle proprie regole per quanto riguarda il discorso dell'entrata per i minori non accompagnati e comunque che viaggiano con persone che non sono i genitori, quindi assolutamente informarsi in questo caso o presso la propria agenzia nel quale si è effettivamente fatta la prenotazione o attraverso gli organi competenti o attraverso internet, che è uno strumento validissimo in questi casi. Molto bene, allora un'ultima considerazione volevo farla con Davide Bomben, ancora presidente dell'Associazione Italiana Esperti d'Africa, per chiedergli qualche suggerimento a favore di quelle famiglie che volessero partire per l'Africa, magari non in tempi brevi perché bisogna organizzarsi per bene, con dei bambini a seguito. Che ci dice? Ci sono moltissimi paesi che in effetti sono aperti ed estremamente sicuri per i bambini. Mi viene in mente ad esempio il Sudafrica, oggi peraltro è il compleanno di Mandela, 95 esatto, anni. Esatto, non l'abbiamo ricordato, affatto bene. È da citare assolutamente, dove oltre ovviamente a città bellissime come Cape Town e meravigliosi parchi nazionali come il Kruger, esistono delle zone malaria free, dove quindi le famiglie si possono sentire assolutamente sicure per poter affrontare dei viaggi di grandissimo valore culturale, ovviamente esperienziale. Mi viene in mente anche la Namibia, un'altra terra fantastica, meravigliosa, tre volte e mezzo l'Italia, dove anche qua i bambini possono tranquillamente godersi le bellezze naturali senza il problema della nofele. E senza il problema, oppure magari bisogna risolverlo prima di partire, del famigerato bollo sul passaporto, perché è diventato il grande protagonista della nostra trasmissione di questa mattina. Io vi ringrazio tutti quanti per aver reso così vivace la puntata di oggi di Salvadanaio, quindi ringrazio Raffaella Navarra, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato, Assunta Piazzolla del CTS, Centro Turistico Studentesco e Giovanile, Alessia Saveri, Alisof di Roma, e Davide Bomben, presidente dell'Associazione Italiana Esperti d'Africa. Puntata molto ricca, magari non abbiamo affrontato in maniera approfondita molti aspetti, ma il nostro intento era quello di farvi venire in mente tutte le cose da fare prima di partire, soprattutto per tutto ciò che attiene appunto la regolarità dei documenti. Grazie a Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, Gianmarco Ferronato in assistenza tecnica. A domani da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti.